La vita è un grande volo e a volte serve un colpo d'ala per farci crescere, salire un po' più su o solo capire che il vento è più forte di noi. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Alla Camera il testo dell'Italicum passerà così come è uscito dal Senato, così come per quanto riguarda le riforme del Senato e del Titolo V, noi riteniamo di avere assolutamente i numeri sufficienti per riuscire a far passare anche queste riforme e andare avanti. Insomma, i numeri ci sono, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, così dice Serracchiani, che è la vice segretaria del PD. Già Renzi, insomma, andava avanti sicuro di sé, avete visto, su Mattarella, e quindi riconferma a Serracchiani che questi numeri per fare le riforme ci sono, quindi diciamo una specie di monito, di riferimento, anche di avvertimento, diciamo, al nuovo centrodestra e soprattutto a Forza Italia. Sapete che ieri Totti ha detto che si è rotto il patto del Nazareno, non so quanti ci credano. Ieri vi avevo lanciato un po' questa domanda, la gran parte non era molto convinto. Oggi però vi dico se nel caso, la rottura del patto Nazareno può convenire a Berlusconi. Per i messaggi SMS potete inviarli al 349-238-6666, come tutte le sere, 349-238-6666, oppure alla pagina Facebook di Effetto Notte, quella potete utilizzare 24 ore su 24. Secondo voi può convenire a Berlusconi la rottura del patto del Nazareno? Parleremo molto di politica anche questa sera, naturalmente con tutte le fibrillazioni, soprattutto all'interno del centrodestra, e con la notizia di pochi istanti fa, secondo la quale alcuni senatori di Scelta Civica potrebbero travasare dentro il PD e forse anche dei deputati, quindi si arricchiscono ulteriormente le file del PD. E ecco perché ci sono i numeri, già ha detto Serracchiani. Parleremo anche di molti altri argomenti, come sempre, sapete che le puntate di Effetto Notte sono sempre ricchissime. Cominciamo intanto con il riassunto della giornata. Stati Uniti, spari nell'università del South Carolina, due morti, forse si tratta di un omicidio-suicidio. Grecia, migliaia in piazza contro l'austerità, Berlino dice ad Atene, alcune vostre scelte sono già sbagliate, Tsipras replica, non accettiamo ricatti, la borsa di Atene va giù. Ucraina, la diplomazia internazionale al lavoro per cercare una soluzione, domani Merkel e Hollande da Putin. La denuncia shock dell'ISIS, bimbi crocifissi e sepolti vivi dal sedicente califfato, e Boko Haram attaccano anche in Camerun facendo strage di civili. Governo Renzi ricuce con Alfano, lite tra maggioranza e Forza Italia sulle frequenze TV. Il disegno di legge anticorruzione ha trovato l'accordo, per ora solo nella maggioranza. Il ministro Orlando annuncia sarà estesa la punibilità per il falso in bilancio. E per il meteo, neve fino a domani in molte zone del nord, piove al centro-sud. Volevo anche ricordarvi, a proposito del meteo, che se siete tra gli autotrasportatori che pare siano stati piuttosto bloccati oggi sulle autostrade, soprattutto più che della neve dai controlli, potete mandare anche voi i messaggi al 349-238-6666 per dire in che situazione vi trovate, se effettivamente la faccenda è questa. Intanto partiamo dagli Stati Uniti, visto che la notizia era proprio negli ultimi minuti. È cessato l'allarme all'Università del South Carolina, dove in tarda mattina, americana naturalmente, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Lo rende noto l'Ateneo via Twitter, affermando che si tratta, che i morti però sono due e si tratterebbe probabilmente di un omicidio-suicidio, di un caso definito dalla polizia isolato. E poi i rapporti tra Grecia e Unione Europea dopo la mossa della tarda serata di ieri della Banca Centrale, che ha rimosso la deroga che consentiva alle banche greche di approvvigionarsi di liquidità fornendo come garanzia titoli di Stato. La tensione tra Grecia e Unione Europea torna un po' a salire. Migliaia di persone si sono radunate oggi davanti al Parlamento greco in piazza Sintagma ad Atene per protestare contro l'austerità e in sostegno al nuovo governo. La manifestazione è stata organizzata via internet proprio a causa della notizia di chiusura, vi dicevo, nei confronti delle richieste del governo di Alexis Tsipras, che chiede una rinegoziazione del debito. Siamo d'accordo sul fatto di non essere d'accordo. Così il ministro tedesco delle finanze Schäuble ha sintetizzato l'incontro con il suo omologo greco Varoufakis. La Germania deve comprendere le difficoltà di Atene, ma le riforme servono e alcune di quelle varate dal nuovo governo non vanno nella direzione giusta, ha aggiunto Schäuble. Chiediamo un programma ponte fino a fine maggio per concordare un nuovo contratto con Europa, BCE, Fondo Monetario, la cosiddetta Troica, gli ha risposto Varoufakis. Ma il tempo stringe. Tra 6 giorni la BCE chiuderà in parte i rubinetti alle banche greche, che potranno sempre fare affidamento sulla liquidità di emergenza fornita da Francoforte, almeno fino al 28 febbraio, quando scade il programma di aiuti alla Grecia. Poi, se Atene romperà gli accordi, rischia anche l'uscita dall'euro. Continuare sulla strada degli aiuti porterà benefici alla Grecia e al resto d'Europa, ha ribadito il Fondo Monetario. Estremamente duro il premier Tsipras. La troica è completamente finita. Rispetteremo le regole dell'Unione Europea, non l'austerità. E intanto fonti parlano di 60 miliardi di euro in arrivo dalla BCE. Livia Zancanera, Radio 24, il Sole 24 Ore. All'estero, con l'Ucraina, la diplomazia è al lavoro per cercare una soluzione alla grave crisi nell'est del paese, dove intanto si continua a combattere a morire. Evitare una guerra totale a 3 ore di aereo da Parigi e a 2 da Berlino, guerra che peraltro potrebbe non fermarsi all'Ucraina. È questo l'obiettivo della missione di Angela Merkel e di François Hollande, annunciata questa mattina dal presidente francese. Una missione che ha tutte le caratteristiche dell'ultima chance per evitare una definitiva escalation del conflitto nell'est del paese, che ha fatto finora 5.300 morti. La Merkel e Hollande sono in queste ore a Kiev, dove si trova anche il ministro degli esteri americano John Kerry, per discutere con il presidente ucraino Petro Poroshenko un nuovo piano di cessate il fuoco messo a punto da Germania e Francia. E saranno domani a Mosca per parlarne con il presidente russo Vladimir Putin. Hollande ha ribadito l'opposizione alla fornitura di armi pesanti all'Ucraina e a un eventuale ingresso di Kiev nella NATO, ma la tensione resta altissima e lo stesso presidente francese ha ammesso che le carte della diplomazia non possono essere giocate all'infinito. Nel frattempo, la NATO ha versato un po' di benzina sul fuoco, annunciando un rafforzamento del fronte est con la creazione di una nuova forza di pronto intervento costituita da 5.000 uomini. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. E restiamo ancora sulle tante notizie dall'estero. La Siria, torniamo in Siria, la Giordania ha confermato che propri caccia militari hanno bombardato oggi obiettivi dello Stato Islamico in Siria. Ieri, vi ricordate, abbiamo parlato di bombardamenti su Mosul in Iraq. Vogliamo essere certi che i jihadisti dell'ISIS paghino per il loro crimine e per le loro atrocità che hanno fatto al nostro pilota, dice la Giordania. Sempre oggi un rapporto delle Nazioni Unite sulle violenze dell'ISIS parla di atrocità compiute nei confronti dei bambini. L'orrore sembrava già abbastanza, ma evidentemente all'orrore non c'è mai fine, e a documentarlo questa volta il rapporto delle Nazioni Unite, dove si parla di atrocità mostruose commesse nei confronti dei bambini: decapitazioni, crocifissioni, bambini sepolti vivi, ridotti in schiavitù e venduti al mercato nero, minori di 8 anni usati come kamikaze o come scudi umani per prevenire gli attacchi della coalizione, e ancora sevizie, torture, abusi sessuali. Le vittime sono per lo più bambini yazidi o cristiani, ma anche sciiti e sunniti, spiega Ginevra Winter, una dei 18 esperti indipendenti membri del Comitato dei diritti dei minori dell'ONU, aggiungendo che si tratta di un problema enorme. Di qui l'appello dell'ONU affinché il governo di Baghdad faccia di tutto per proteggere i più piccoli, vittime innocenti di un'insensata guerra in nome della religione. Intanto arriva la notizia che dopo mesi di tentativi l'esercito regolare libico ha riconquistato il porto di Bengasi, strappandola ai jihadisti, a riferirlo media libici che citano fonti militari, ma da qualche ora sono ripresi gli scontri all'interno del porto tra esercito regolare e i jihadisti che cercano di riconquistare lo scalo. Alessandra Schepisi, Radio 24. 24, sole 24 ore. E le atrocità di cui si parlava e ti ha sentito non finiscono purtroppo qui. 90 civili del Camerun sono stati massacrati dai jihadisti nigeriani del Boko Haram che hanno attaccato la città di Fotokol, bruciato chiese, moschee, villaggi, uccisi a colpi d'arma da fuoco o arsi vivi i giovani che resistevano all'attacco. I feriti sono 500 nella loro folle avanzata. In Camerun i jihadisti hanno anche raso al suolo diverse scuole. Contro i terroristi islamici sono schierati i militari della Nigeria, del Camerun, del Chad. Oggi si è aperta una tre giorni fra esperti militari africani e occidentali per mettere a punto un piano di intervento di un contingente panafricano contro le milizie jihadiste nigeriane di Boko Haram. Gli stessi, vi ricordate, che hanno rapito ormai l'anno scorso più di 200 studentesse. E poi in Tunisia il Parlamento tunisino ha votato la fiducia al nuovo governo del premier Essid, una larga coalizione guidata dal partito Nidat Ounet, ma che comprende anche gli islamici di Ennahda. Il governo accelera sul disegno di legge anticorruzione, accordo trovato infatti all'interno della maggioranza. Oltre all'estensione della punibilità per il falso in bilancio, esso sarà sempre perseguibile d'ufficio, spiega il ministro della giustizia Orlando. Abbiamo infatti tolto, aggiunge, l'obbligo della querela. Non posso che manifestare una grande soddisfazione, perché questo ci consentirà di trasformare in norme vigenti dei progetti di legge che da tempo sono sottoposti all'attenzione del Parlamento e delle proposte che vengono anche dal governo. Mi auguro che su questi temi ci sia la collaborazione anche delle opposizioni, dice ancora Orlando. Quanto ai tempi parlamentari, la corsia preferenziale c'è, spiega il guardasigilli, e si arriverà presto all'approvazione definitiva. Ci sono margini per dei miglioramenti, commenta intanto il presidente anticorruzione Cantone. Prevedere per esempio misure premiali a favore di chi denuncia, perché c'è sempre il problema di come far emergere i fatti di corruzione. Chiesto infine il rinvio a giudizio della procura di Genova per l'ex segretario della Lega Bossi e l'ex tesoriere Belsito per la presunta truffa sui rimborsi elettorali ai danni dello Stato da circa 40 milioni di euro. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questa naturalmente era la politica italiana e della crisi del centrodestra, dei rapporti all'interno della maggioranza, del destino, del patto del Nazareno. Poi parleremo tra poco col primo ospite stasera in trasmissione. Voi continuate a mandare i vostri messaggi se ritenete che il patto del Nazareno sia rotto e se convenga a Berlusconi romperlo al 349-238-6666 oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Siamo alla cronaca ed è iniziata oggi a Grosseto l'arringa dei difensori del comandante Francesco Schettino al processo sul naufragio della Costa Concordia. Uno dei legali ha detto che Schettino è stato ghettizzato, poi ne parleremo più tardi e capiremo anche in che senso. Ed è stato convalidato il fermo anche al terzo presunto complice della banda dell'acido a Milano e dall'inchiesta emergono nuovi elementi. I fascicoli ora sono stati unificati e il significato è chiaro. Alla banda dell'acido si contesta anche un'altra aggressione. Martina Levato e Alexander Butcher, la bocconiana e il broker già in carcere per le violenze contro Pietro Barbini, sarebbero responsabili pure dell'agguato a Stefano Savi, studente di economia sfregiato nella notte di Halloween. I sospetti già raccolti sono diventati per i PM più che fondati nelle ultime ore, dopo le dichiarazioni del terzo complice Andrea Magnani, a cui è stato convalidato il fermo. Parziali ammissioni, indizi, ricordi, tessere che portano i magistrati a ipotizzare una stessa banda anche dietro l'aggressione a Savi, che ora rischia di perdere un occhio. Ma quello forse fu solo un drammatico errore, uno scambio di persona. Un'assurda ipotesi sta infatti prendendo piede in queste ore decisive, che cioè il vero obiettivo della banda non fosse Savi ma Carparelli, il terzo studente che ha denunciato una tentata violenza con l'acido. I due si somigliano moltissimo, ma se quest'ultimo ha amici in comune con Barbini e con la coppia definita diabolica, il primo no. Altro indizio che fa pensare ad un errore di persona in questa storia di relazioni malate, vendette e acido. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia che riguarda l'immigrazione: due motovedette della Guardia Costiera di Lampedusa hanno caricato 179 immigrati che si trovavano a bordo di due gommoni fatiscenti al largo delle coste libiche, lo rende noto la Guardia Costiera. Poi per il maltempo, nevica in buona parte del nord Italia con disagi che al momento sono limitate alle autostrade nei tratti appenninici, in alcune zone rimarranno chiuse le scuole, piove al centro-sud. Poi verso la fine della puntata ci aggiorneremo su quello che ci aspetta nelle prossime ore. Intanto vedo che qualche autotrasportatore ha già risposto al mio appello, se è vero che vi trovate bloccati da qualche parte, se ci sono stati problemi, perché pare che più i controlli che non la neve abbiano creato disagi. Allora dice un ascoltatore che non si firma in Valsugana direzione Trento, disastro neve. E poi un ascoltatore che si firma Nocciolino dice: sono 35 anni che faccio il trasportatore, negli ultimi 20 anni non ho mai avuto problemi come stanno facendo in questi ultimi anni, è insopportabile, le autostrade italiane ci stanno facendo impazzire con questi blocchi, dice questo autotrasportatore. E poi invece, rispetto alla domanda a cui risponderemo tra poco con l'ospite, il primo ospite di questa sera, se il patto nazareno sia effettivamente rotto e se convenga Berlusconi, scrive Emilio da Milano: Forza Italia mi sembra un minestrone di legumi, Berlusconi non comanda più e Renzi prosegue per la sua strada di cambiamenti. Gli altri messaggi, Angie dice: io credo, e del resto sento in giro negli ambienti più vari, che solo ai politici e ai giornalisti interessa il patto del nazareno, ognuno dei due per loro interessi personali, ormai lo sappiamo tutti, ma non so per noi per quali interessi personali. Ma comunque, Salvatore, penso che sia solo una tattica, alla fine avrebbe solo da perderci Berlusconi, ancora una volta l'allievo ha superato il maestro. Ci sentiamo tra pochino. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve li ricordo a breve le notizie, stavo guardando ancora i vostri messaggi, sempre sul patto del Nazareno o anche sulle difficoltà che stanno incontrando adesso nel traffico. Però vi ricordo prima le notizie e poi approfondiremo l'attualità politica. L'Europa non cede ad Atene, anche il Fondo Monetario Internazionale frena, Tsipras incontra Schäuble, tratti, dice Schäuble, il ministro tedesco, con la Troica, la Grecia cerca un accordo ponte, Renzi ricuce con Alfano e apre la caccia ai responsabili, nel senso di coloro che si sentono responsabili del paese, delle riforme che possano aiutare la maggioranza nelle riforme. E poi Ucraina in fiamme, Hollande e Merkel in missione per cercare vie diplomatiche, l'Europa cresce lentamente, il PIL italiano a più 0,6%, tutto il nord per quanto riguarda il maltempo sotto la neve, tiri in coda e allerta fiumi a Milano e Torino imbiancate, denuncia shock dell'ONU, bimbi crocifissi e sepolti vivi dall'ISIS. E poi superato il picco dell'influenza, che questa notizia ha letto 3,2 milioni di italiani, pronto un dossier sulle liberalizzazioni polemiche sulle farmacie. E torniamo a soffermarci sulla politica, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, naturalmente soprattutto dal prima e dopo Mattarella, e che ha causato la candidatura di Mattarella e poi la sua elezione, questa forte turbolenza di cui abbiamo discusso nel centrodestra, soprattutto in Forza Italia, ma anche nel nuovo centrodestra, che ha vissuto un certo travaglio, no? Cambiando posizione prima delle votazioni, prima scheda bianca, poi volevano votare anche alla quarta, ultima votazione, la scheda bianca, poi hanno deciso quasi in modo compatto, ma non del tutto, il nuovo centrodestra di votare Mattarella, infatti diversi si sono dimessi. E poi il nuovo centrodestra si è chiesto fino a ieri che strada prendere, si è trovato un bivio, cioè continuare l'alleanza con Renzi, con la maggioranza, oppure prendere una propria strada. Oggi pare che questo strappo sia stato ricucito da Renzi, che ha visto Alfano, però vogliamo risentire che cosa aveva detto solo due giorni fa il coordinatore nazionale del nuovo centrodestra, resta Quagliariello, qui a Effetto Notte. Ci troviamo esattamente a un bivio, perché che cosa è accaduto? Il travaglio lo abbiamo avuto anche nei giorni dell'elezione del Presidente della Repubblica, noi apprezzavamo il nome di Mattarella, non apprezzavamo il metodo col quale quel nome è stato scelto, ma per una ragione semplice: quando c'è un'alleanza gli alleati insomma in qualche modo si mettono d'accordo, se invece c'è la posizione di uno e a seconda dei problemi e quest'uno si allea a destra o a sinistra, coloro i quali vengono portati, diciamo, nel cono di luce ora da una parte ora dall'altra, ovviamente ne approfittano. È successo a Berlusconi ogni volta che è andato a Palazzo Chigi per il patto del Nazareno, e poi è successo a Bersani, alla sinistra del PD, quando si è scelto il Presidente del Consiglio. Ma invece coloro i quali sono alleati stabili di questa forza ovviamente rischiano di essere marginalizzati. Allora, per noi il problema oggi si pone in questi termini: c'è la possibilità di un'alleanza strutturale che serva a fare quelle riforme che servono all'Italia e che sono utili all'Italia? Insomma, De Gasperi gli alleati se li inventava quando non li aveva, e qui c'è il problema di riconoscere la dignità di un'alleanza. Se questa possibilità non c'è, se non sappiamo con chi si fanno le riforme, quali sono le riforme, quando si fanno le riforme, insomma, la nostra ragione di essere al governo viene meno. Questo è il problema. Non so se la situazione è completamente risolta, però vi dicevo, oggi Renzi ha visto Alfano e sembra che le cose siano un po' rientrate, mentre continua il caos Forza Italia. Ieri c'era qui a Effetto Notte Raffaele Fitto, considerato il numero uno dei dissidenti all'interno di Forza Italia, che è tornato a farsi sentire con forza, a criticare ancora Berlusconi, la linea tenuta sin qui col patto nell'Azzareno, con l'alleanza con Renzi. Ha chiesto nuovamente di azzerare tutte le cariche e ha chiesto le primarie. Poi sentiremo alcuni stralci anche di Fitto, ma la notizia anche di oggi, l'avete sentita, che probabilmente alcuni senatori di Scelta Civica e anche deputati di Scelta Civica passeranno domani o nelle prossime ore o nei prossimi giorni nel partito del PD. Vogliamo sentire anche brevemente cosa aveva detto ieri Giovanni Toti di Forza Italia. Il patto del Nazareno, così come l'avevamo interpretato fino ad oggi, noi lo riteniamo rotto, preferite, scegliete voi come possiamo dire, congelato, finito. Chiediamo lumi allora al professor Roberto Dalimonte. Professore, buonasera, bentornato. Grazie. Buonasera a lei. Politologo, docente di sistema politico italiano all'UIS, editorialista del Sole 24 Ore. Professore, questo patto del Nazareno è effettivamente rotto? È tattica? Sono un po' di moine che si fanno per cercare di tirare un po' l'acqua al proprio mulino a Renzi, di forzare ulteriormente Berlusconi su una certa strada? Berlusconi anche di cercare di accontentare il proprio elettorato, di far rientrare la minoranza di Fitto, che ieri ci diceva, ha detto per la prima volta, proprio ha detto il numero ufficiale, siamo in 40 tra i dissidenti, poi magari lo facciamo sentire quel passaggio. Guardi, a me interessa soprattutto distinguere tra quello che ha prodotto l'accordo tra Renzi e Berlusconi fino ad oggi e quello che può succedere domani. Il patto del Nazareno, che poi appunto è questo rapporto di collaborazione sulle riforme che è iniziato a gennaio del 2014, ha prodotto una riforma elettorale che è quasi arrivata alla fine, perché è stata approvata al Senato una decina di giorni fa, manca l'ultimo passaggio alla Camera, quindi siamo a un passo dall'avere finalmente un sistema elettorale certo e efficiente. E dall'altro ha prodotto una riforma costituzionale che non è così vicina come l'Italicum al traguardo definitivo, però è già avviata. Ora io mi chiedo, queste fibrillazioni legate all'elezione della Presidenza della Repubblica avranno riflesso su questi prodotti, su questi risultati del patto del Nazareno, dell'accordo tra Renzi e Berlusconi? Io tendo a pensare di no, però io non ho la sfera di cristallo e quindi qualche dubbio è lecito, però anche qui distingo tra la riforma elettorale e quella costituzionale. Io penso che a questo punto la riforma elettorale dovrebbe essere approvata alla Camera. Forse Renzi dovrà fare qualche concessione sulla riforma costituzionale. Quindi da questo punto di vista, se ho ragione io, la cosiddetta rottura del patto del Nazareno non dovrebbe avere riflessi importanti su quello che è stato il prodotto del rapporto di collaborazione. Poi per il futuro, in realtà, il patto del Nazareno non conteneva altro, perché il patto del Nazareno conteneva tre punti: legge elettorale, riforma del titolo quinto e superamento del bicameralismo paritario. Ora, queste cose sono state fatte, siamo quasi alla conclusione, vediamo se il patto della rottura del patto avrà influenza su quello che è stato fatto. Sarebbe una follia dal mio punto di vista per il Paese e anche per Berlusconi. Berlusconi tirarsi indietro adesso, disfare tutto quello che c'è stato fatto. Per il futuro del patto non c'è niente, quindi la rottura del patto per quanto riguarda il futuro mi interessa meno. Non ha incidenza. Professore, però ci dica, siccome dicono che lei è uno tra i pochissimi edotto su davvero i punti che presenti questo patto del Nazareno, questa storia del nome del Presidente della Repubblica, c'era o non c'era? Io non ero presente, ovviamente. Lei sa che i quattro presenti nel momento in cui Berlusconi ha incontrato Renzi, mi pare sia stato il 18 gennaio del 2014, erano Renzi stesso, ovviamente, Berlusconi, Letta e Guerini. Sono a loro che andrebbe fatta questa domanda. Però dicono che lei è uno dei più informati in assoluto, professore. Sì, io penso che ne abbiano parlato. Cioè, nel senso, hanno parlato di questo e forse hanno parlato d'altro. Ma il nocciolo del patto sono le cose che le ho detto, erano quelle di domani che sono state portate avanti, e oggi almeno la riforma elettorale è quasi conclusa. Professore, c'è stato un annuncio oggi che apparentemente può sembrare slegato, ma non del tutto. Il ministro della giustizia Andrea Orlando ha annunciato l'intesa nella maggioranza sull'impianto del disegno di legge anticorruzione. È arrivato al termine del vertice di maggioranza, al quale hanno partecipato anche Nuovo Centrodestra e Scelta Civica, e nell'intesa è contenuta l'estensione dell'area di punibilità del falso in bilancio e l'eliminazione della procedibilità a querela. Sentiamo questo passaggio di Orlando. L'unica ipotesi sulla quale ci siamo riservati di lavorare ulteriormente è quella della riscrittura della norma sul falso in bilancio, per la quale si è intanto deciso di escludere la procedibilità querela e di estendere invece a tutte le fattispecie la procedibilità d'ufficio. E poi si è condiviso l'obiettivo di restringere l'area di non punibilità. Questo però mantenendo sempre un principio, un obiettivo che era, diciamo, presente nel testo del governo, di tener conto della rilevanza del fatto in questione da un lato e anche della dimensione dell'impresa che commette questo tipo di illecito. Fra l'altro il governo ha riformulato un emendamento sulle frequenze TV in digitale con l'effetto, secondo il centrodestra, di chiedere 50 milioni alla RAI e a Mediaset da ridistribuire agli altri operatori. Questi provvedimenti, professor Dalimonte, secondo lei, se uno proprio avesse un pensiero maligno, possono essere un effetto così immediati della minaccia di rottura del patto Nazareno? Guardi, lei appunto l'ha detto, è maligna, io non sono maligno come lei. Malvagia addirittura, sì. No, può anche essere, ma io non ho notizie per poter dire che attendibilità questa ipotesi, quindi non le posso dire. Sa, poi quando si parla del patto del Nazareno si tende a parlare molto di quello che c'è dentro, ma in realtà c'è un aspetto importante, è quello che non c'è in un certo senso, cioè dire, se è vero, io credo che sia vero, che Berlusconi ha visto nel rapporto di collaborazione con Renzi due vantaggi: il fatto di tornare ad avere un ruolo politico e il fatto di non avere un governo ostile. Secondo me questa è una ricostruzione attendibile. Se questo è vero, lei capisce che non è tanto quello che Renzi ha promesso a Berlusconi di fare, ma quello che in un certo senso Renzi si astiene da non fare. Le faccio un esempio: Renzi avrebbe potuto abolire il canone della RAI, che gli italiani hanno pagato il mese scorso, qualcuno lo stava ancora pagando. Facendolo pagare a Berlusconi, per esempio, cioè c'è tutta una serie di provvedimenti che Renzi avrebbe potuto prendere, che potrebbe ancora prendere, che avrebbe potuto danneggiare Berlusconi, non sono stati presi, quindi questo certamente non è verificabile, nel senso che quello che avrebbe potuto fare non ha fatto, e quello che invece è stato fatto, e sappiamo, sono le riforme. Quindi insomma è una questione molto complicata. Io continuo a pensare che alla fine Berlusconi non romperà, diciamo, il rapporto di collaborazione in maniera netta. Secondo me verrà gestito forse in maniera diversa, forse anche da personaggi diversi, ma che non ci sarà una vera contrapposizione tra Renzi e Berlusconi, perché in questo momento Berlusconi non mi sembra nelle condizioni di poter scegliere questa alternativa di contrapposizione. Così dicono anche vari ascoltatori sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Abbiamo anche risposto lei ad altre domande, tipo Corrado che dice: conviene agli italiani, questa cosa lei diceva che non conviene agli italiani un'eventuale rottura. Poi Franco che dice: cosa c'è scritto in questo fantomatico accordo? E lei lo ha detto. Mi dica solo sinteticamente, professor Dalimonte, in chiusura, questa cosa del travaso di senatori e forse anche deputati di Scelta Civica nel PD fa parte di questa operazione di conquista di Renzi, quindi una maggioranza che può sempre più allargarsi e fare a meno probabilmente di chi fa i capricci? Ma questo era un evento atteso, perché ormai Scelta Civica non esisterà più, sì. Non esiste più, quindi cosa esigua? È una questione di solo di tempo e quindi non mi sorprende affatto. Bene, professor Dalimonte, la ringrazio, alla prossima. Grazie, buona serata. E prendiamoci questa pausa e voi continuate con le vostre riflessioni, se volete, al 349-238-6666 per gli sms, oppure c'è lì la pagina Facebook Effetto Notte, sempre per voi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi qui, Roberta Giordano con voi. Continuano i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ne leggo un po' qua, un po' là. Adesso sempre sul patto del Nazareno, se effettivamente secondo voi si è rotto, anche se il professor Dalimonte ci diceva che in realtà non è così, e se convenga Berlusconi, per il professore non conviene a questo punto. Alberto da Lecce dice: finisce il patto del Nazareno, inizia il ratto degli Alfanetti. Diciamo, ha fatto un po' una parafrasi, una parodia. Antonia: secondo me a Berlusconi conviene non rompere il patto del Nazareno. E poi Albert da Padova: il patto del Nazareno è morto e così ne fanno uno nuovo e vanno avanti altri 3 anni e viva la rottamazione. Poi vi volevo dire anche che è uscita adesso una dichiarazione di un deputato di Scelta Civica. Allora, la notizia politica forte di questa sera è che secondo fonti vicine al PD diversi senatori proprio domani, forse un po' più tardi ma già domani, dovrebbero passare al PD e forse anche dei deputati. Allora c'è stata la reazione, la replica di un deputato di Scelta Civica che è Zanetti, il quale dice, vediamo se la ritrovo questa dichiarazione, eccolo qui, Enrico Zanetti, deputato di Scelta Civica, dice: domenica faremo il nostro congresso e se magari Renzi fa un salto riesce pure a spiegarci di quali approdi comuni parla e scusarsi con i nostri parlamentari. Trovarsi dentro un PD guidato in questo modo deve essere difficile, entrarci su chiamata demenziale. Questa è la replica di un deputato di Scelta Civica che era andati per, insomma, lì sulla soglia del PD. Poi capiremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, se effettivamente è così, che cosa succede. Adesso vi rammento le notizie più importanti della giornata e poi andremo su una di queste. Grecia, migliaia in piazza contro l'austerità. Berlino dice ad Atene: alcune vostre scelte sono già sbagliate. Tsipras replica: non accettiamo ricatti. Intanto la borsa di Atene va giù. Stati Uniti, spari all'università del South Carolina, 2 morti, forse si tratta di un omicidio-suicidio secondo la polizia. Ucraina, la diplomazia internazionale al lavoro per cercare una soluzione. Domani Merkel e Hollande da Putin. E poi la denuncia shock dell'ONU che riguarda l'ISIS: bimbi crocifissi e sepolti vivi. E intanto i Boko Haram, il movimento jihadista nigeriano, attacca ancora in Camerun facendo strage di civili. Il governo Renzi ricuce con Alfano lite tra maggioranza e Forza Italia sulle frequenze TV. Il disegno di legge anticorruzione, trovato l'accordo nella maggioranza, intanto il ministro della giustizia Orlando annuncia sarà estesa la punibilità per il falso in bilancio. Meteo: neve fino a domani in molte zone del nord, piove al centro-sud, e anche su questo ci aggiorneremo poi. Bene, adesso parliamo di uno dei pensieri in cima alla classifica dell'Unione Europea, che è la Grecia. Vi ricordate quando settimane fa si paventava la vittoria di Tsipras in Grecia col suo partito radicale Siriza? C'era molto timore, molta tensione. Poi quando ha vinto, effettivamente bisogna dire che molti sono sembrati, anche tra i leader europei, piuttosto entusiasti di questa vittoria. E il neo primo ministro Tsipras e il ministro delle Finanze Varoufakis hanno subito annunciato le misure che avevano intenzione di varare per il popolo greco, soprattutto per la rinegoziazione del debito della Grecia, iniziando poi un tour europeo appunto in vari paesi per capire che soluzioni trovare. Renzi aveva addirittura detto nei giorni scorsi che la vittoria di Tsipras in Grecia è una benedizione. Però cosa è successo ieri in tarda serata, proprio in chiusura di Effetto Notte? Ho dato questa notizia, che è arrivata quello che si definisce lo schiaffo, la doccia fredda, chiamatela come volete, della Banca Centrale Europea, che chiude i rubinetti alle banche greche lasciando aperto solo quello di emergenza. Chiediamo tutto ciò che cosa significa a Vittorio Darol del Sole 24 Ore. Vittorio. Vuol dire che c'è un problema di comunicazione, cioè il Tsipras è stato abbastanza abile nel presentarsi all'Europa in una serie di appuntamenti, un tour in Europa abbastanza fitto di appuntamenti, è andato a Roma, è andato appunto a Parigi, a Bruxelles. Sono diventati anche molto popolari lui e Varoufakis, no? Esattamente, Varoufakis ha fatto una serie di appuntamenti anche diciamo molto complessi, perché è andato anche nella Tana del Lupo, è andato a parlare con appunto il ministro Wolfgang Schäuble, che è il proprio l'ideologo del rigore, il ministro delle finanze tedesco di Angela Merkel, l'ideologo del rigore in Europa, ed è andato alla BCE. Che cosa hanno raccolto fino adesso con una politica abbastanza diciamo così cauta, perché hanno detto vabbè, avevamo chiesto di prendere il debito e di metterlo, di tagliarlo, di fare l'haircut, quindi di ridurlo. Abbiamo detto cominciamo a ragionare qualcosa di più semplice, con quelli che noi abbiamo chiamato giornalisticamente Varoufakis bond, insomma cercando di agganciare i bond alla crescita del paese, ti pago se però il mio paese comincia a crescere. Insomma tutte mi sembrava a tutti gli analisti un atteggiamento più cauto e anche prudente, anche abbastanza creativo. La risposta è stata una delle più secche e negative. Tutto questo ha portato a un dialogo fra sordi che è molto pericoloso, perché questa sera per la prima volta da sera da 7 anni c'è stata una manifestazione senza polizia con le porte aperte del Parlamento che è a favore del governo, quindi è una cosa assolutamente inusuale per noi che seguiamo la Grecia da tanto tempo, vedere una manifestazione che non ha i cordoni di polizia, non ci sono le transenne ed è tutto a favore appunto del governo. Questo è un elemento di svolta. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Tsipras vuole lanciare un messaggio molto abile anche in questo caso: il popolo greco è con me, io non ho bisogno quindi della polizia, di forze dell'ordine che mi proteggono, perché io sto effettivamente cercando di lanciare un nuovo messaggio. Il problema è che non sembra esserci ancora sintonia. Mi pare che tra Europa e Atene in questo momento non si sia capito che ad Atene non si guardi alla crescita come un problema, ad esempio come facciamo noi, di consumi che rallentano, ma un problema di povertà che avanza. Quindi è un altro modo di vedere, un'altra situazione, cioè più da paese, ahimè, in via di sviluppo che da paese ricco che vede diciamo il PIL decrescere. Quindi è un modo diverso di porre il problema, perché ad Atene i problemi si sono esasperati, c'è il rischio dietro l'angolo, non dimentichiamolo, anche di una crisi bancaria, perché nel solo mese di gennaio sono stati ritirati 11 miliardi di euro dai depositi, dai conti correnti, quindi anche lì dietro l'angolo, dopo il no della BCE a mettere appunto a accettare i bond come collaterali, si apre una prospettiva che è quella di Cipro, cioè che in una notte si decisero il blocco dei bancomat e dei conti correnti. Tu dici che in prospettiva molto complicata. Ma auguri allora a Tsipras e a Varoufakis e anche a tutto il popolo greco, ma insomma immaginiamo e speriamo che si possa trovare una strada possibile di mediazione, Vittorio Darol. Sì, penso proprio di sì, cioè perché se si fa l'errore, ci sono due scuole di pensiero in Grecia, quelli che dicono mettiamo nell'angolo all'angolo Tsipras e costringiamolo appunto a essere più ragionevole, e quelli che dicono rendiamoci conto che forse la troica è stata un po' eccessiva nel non considerare gli effetti sociali della medicina che si è infetta. Quindi questo meccanismo di essere più cauti, più diplomatici, più attenti agli effetti sociali di quello che si è fatto, forse andrebbe considerato, anche perché oggi ha telefonato Putin a Tsipras invitandolo a Mosca, e anche qui torna un'altra possibilità per Atene, cioè quella di aiuti da Mosca, aiutare, no? La Mosca. Esattamente. Staremo a vedere, per il momento non abbiamo notizie della telefonata di Putin, ma probabilmente il contenuto era questo. Intanto grazie Vittorio Derold. Ciao Vittorio. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Aggiorniamo chi sta viaggiando così capiamo anche se ci sono altri intoppi per via della neve e del maltempo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E rieccole le notizie più importanti della giornata della Grecia. Abbiamo appena parlato dell'Europa che non cede ad Atene, vedremo se ci sono possibili mediazioni. Renzi intanto, per quanto riguarda il governo italiano, ricuce con Alfano, apre la caccia ai responsabili, cioè altri parlamentari che possano sostenere la maggioranza nelle riforme. E notizia di poco fa, l'avete sentito, diciamo all'inizio di Effetto Notte, la notizia era che alcuni deputati e senatori di Scelta Civica potranno già da domani passare al PD, ma c'è Enrico Zanetti, deputato di Scelta Civica e anche sottosegretario all'economia, che replicando a Renzi ha detto: domenica faremo il nostro congresso, se magari Renzi fa un salto riesce pure a spiegarci di quale approdi comuni parla, e gli dice di scusarsi. E poi le altre notizie sono quelle che riguardano l'Ucraina, che è in fiamme con la diplomazia che sta tentando tutte le strade. Hollande e Merkel domani saranno in missione, e tutto il nord, abbiamo detto, per quanto riguarda il maltempo sotto la neve. Tra poco sentiremo anche le previsioni, la denuncia shock dell'ONU con bimbi crocifissi e sepolti vivi da parte dell'ISIS. Europa 24 notte. Nello spazio europeo parliamo del porto di Livorno, che è uno dei primi progetti contenuti nella famosa lista presentata dall'Italia nell'ambito del piano Juncker, a poter beneficiare dei finanziamenti della Banca Europea di Investimenti. L'obiettivo di questo progetto è trasformare il porto toscano in un grande scalo mediterraneo nel giro di 3-4 anni. Dalla Banca Europea degli Investimenti dovrebbero arrivare 200 milioni di euro, di cui una prima tranche già nei prossimi mesi. Manca però l'approvazione del piano regolatore, al quale si oppone il comune guidato dal Movimento 5 Stelle, quello di Livorno, ma il presidente della regione toscana, Rossi, assicura: andremo avanti o in caso useremo dei poteri sostitutivi. Sentiamo il microfono di Alessandra Schepisi. Siamo molto impegnati come regione toscana, perché abbiamo previsto in via del tutto straordinaria, pur non essendo competenza della regione, un intervento a favore di questo investimento che è intorno a 500 milioni a carico nostro, per circa 170 milioni, altri 170 a carico dell'autorità portuale, e poi chiedevamo un contributo da parte del governo nazionale. Io sono stato in Europa a verificare se c'è la possibilità di accedere ai fondi del cosiddetto pacchetto Juncker. Pare di sì, naturalmente la prima cosa che conta è la cosiddetta bancabilità, e la bancabilità deve prevedere ciò che noi siamo in grado di fare anche in tempi rapidi. Deve prevedere innanzitutto che questo investimento è ripetitivo, lo è senz'altro, anche perché dietro a Livorno c'è un immenso retroporto che può funzionare per attrarre investimenti e per la logistica. E poi deve prevedere anche le carte a posto. La prima carta da mettere a posto è il piano regolatore del porto di Livorno, che noi abbiamo approvato come Regione Toscana, che abbiamo portato poi a livello nazionale alla Commissione Nazionale Lavori Pubblici, che la Commissione ha approvato, adesso spetta al Comune. Quindi lei ha sollecitato anche il Comune, no? Beh, certo che ho sollecitato. Io al Comune ho chiesto un cronoprogramma. Se il Comune non risponderà in modo positivo, noi siamo disposti anche ad usare i poteri sostitutivi, perché insomma senza un piano regolatore non c'è bancabilità a questo progetto, che è un progetto veramente cruciale per la vita della città di Livorno, per il porto, per l'occupazione, direi per tutta la Toscana. Ci sono delle resistenze? Ora non faccio parte del Consiglio Comunale di Livorno, ma è stato fatto il piano regolatore dalla giunta precedente. Adesso la giunta precedente, che era del PD e alleati, è stata sostituita con una giunta dove le elezioni hanno visto vincere il Movimento 5 Stelle. C'è dibattito, e mi sembra che questo dibattito alla fine metta tutto in una condizione di risolutezza. Invece bisogna decidere rapidamente. Il sindaco ha dichiarato si è aspettato 20 anni e adesso si può fare tutto in fretta. Beh, io rispondo semplicemente che purtroppo si è perso 20 anni e che se ne perdiamo ancora qualche altro mese perdiamo l'ultima grande occasione che abbiamo per dare a Livorno il porto che la città merita. Come si trasformerebbe? Cioè il porto di Livorno? Nuovi traffici internazionali e quindi anche quelli del Mediterraneo avverranno su grandi navi che sono molto larghe e che hanno un pescaggio molto profondo. Nel porto di Livorno non si entra con navi di questo tipo. E quindi se il porto di Livorno vuole continuare a servire i grandi traffici internazionali come storicamente ha fatto, bisogna che si doti di una dacchina nuova sufficientemente ampia da accogliere queste grandi navi. E la cosa è qui ed è molto molto semplice alla fine. Si parla però di c'è il rischio di un impatto ambientale negativo sul territorio. Gli impatti ambientali si devono valutare. Io so che sono state prese tutte le precauzioni del caso e sono già state fatte tutte le valutazioni. Mentre quali potrebbero essere le ricadute occupazionali di questo piano? Una ricaduta precisa dal punto di vista occupazionale non è stata fatta, ma significa far diventare Livorno uno dei porti maggiormente attrattivi nel Mediterraneo. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E occupiamoci adesso del processo sul naufragio della Costa Concordia, avvenuto, vi ricordate, il 13 gennaio 2012, costò la vita a 32 persone. Oggi a Grosseto è iniziata l'arringa dei difensori dell'ex comandante Schettino. C'è Raffaella Calandra che ci dice com'è andata questa arringa. Ciao Roberta, ciao. È cominciata oggi e terminerà domani. Gli avvocati di Schettino stanno cercando praticamente di smontare alcune delle accuse rivolte al comandante, che è rimasto l'unico imputato in questo processo. E oggi in sostanza il difensore ha cercato in qualche modo di contestare l'impostazione stessa dell'inchiesta portata avanti dai PM di Grosseto, che a loro dire si sono concentrati esclusivamente sull'ex comandante, che è stato ghettizzato processualmente, ha detto l'avvocato Laino. In sostanza i difensori ritengono che agli altri coindagati siano stati concessi dei patteggiamenti per pene molto basse. Ricordiamo che anche altri ufficiali e altri rappresentanti anche di Costa sono stati indagati e poi hanno patteggiato, per questo sono usciti dal processo, mentre la procura, secondo la difesa del comandante Schettino, si è concentrata esclusivamente sul comandante. Allora l'avvocato che cosa ha fatto? Ha cercato di andare a smontare quest'immagine costruita dall'accusa su Schettino, definito pazzo navigatore che cerca scogli da schivare, il farfallone con la signorina a proposito della cena con la Moldava, e ha invece dato la loro ricostruzione, la loro prima ricostruzione dei fatti. Dicono che quello del Giglio è stato sicuramente un incidente drammatico, ma che non è stato solo da attribuire alla responsabilità del comandante, bensì ad un sistema. Un punto importante è stato la loro versione dei fatti su quell'ordine di evacuazione, di abbandono della nave dato con ritardo. Secondo la difesa è stato fatto perché mettere a mare, quindi evacuare una nave con 4.000 persone a bordo, in quel momento veniva considerata la cosa più pericolosa. E poi ancora una volta la difesa ha cercato di distribuire le responsabilità sulla gestione dell'emergenza anche sugli altri ufficiali che erano in plancia quella notte insieme a Schettino. Vedremo domani come terminerà la arringa difensiva del comandante, che sicuramente ha di fronte a sé anche la consapevolezza di una richiesta molto pesante da parte della procura, no? 26 anni e carcere immediato soprattutto. Grazie Raffaella Calanda, allora ci aggiorniamo domani. Ok, ciao Roberta. Adesso invece, in questo tempo che ci rimane, capiamo che tempo ci aspetta nelle prossime ore, vista questa neve, pioggia, centro-sud, forse non è stata la Big Snow Paolo Corazon di Trevi Meteo che ci si aspettava, però insomma qui a Milano ha ripreso a nevicare dopo la pioggia. Esatto. Sì, buonasera Roberta. Allora, poi sai, questi nomignoli a noi non piacciono molto, sono un'invenzione infatti mediatica. Molto americana, sì. Brava, brava. Ecco, in realtà comunque la neve è arrivata, continuerà a nevicare sulle regioni di nord-ovest, quindi Piemonte, Lombardia, entroterra Ligure e anche l'Emilio Cina. Queste zone anche domani avranno situazioni piuttosto critiche, sicuramente neve oltre i 200 metri, quindi anche molto in basso, ma pure in pianura fortunatamente neve bagnata, quindi grossi disagi nelle grandi città non dovrebbero verificarsi. Per però nel resto d'Italia non è che le cose vadano meglio, perché sarà invece la pioggia e il vento a essere protagonisti, con ancora domani situazioni difficili in molte zone dell'Italia centrale, un'attenuazione attesa per il sud Italia, però guarda, ci vorrà qualche giorno perché la situazione si tranquillizzi in tutto il paese. E aspettiamo che si tranquillizzi allora. Grazie Paolo Corazon. Ciao Paolo, ciao. Buon tempo a te. Vi do appuntamento a domani, come sempre alle 21, domani un altro giorno, ma l'appuntamento è sempre lì, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per voi. Ringrazio Cristian Goldoni, alla parte tecnica Paolo Corleoni, e da Roberta Giordano buon Effetto Notte a tutti.